Azione. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione.org. La notizia della rivolta data dai media corps in tutta la nazione si è trasformata in una chiamata alle armi contro ogni forma di autorità. Fuochi di rivolta fanno la loro apparizione anche in altre grosse metropoli, nulla a confronto a quello che sta accadendo a Nazaro 13, ma comunque molto pericolose per i governatori locali. Navig, che aveva chiesto al governo nazionale l'invio di almeno 2000 Tarspok, viene accontentato ma non nella quantità di uomini topo, perché c'è pericolo che la situazione che si sta surriscaldando e allargando a macchia d'olio nelle altre metropoli possa degenerare da un momento all'altro. I governanti nazionali non possono permettersi lo spostamento di tanti Tarspok tutti in una sola metropoli, perché anche se per ora non si hanno notizie certe, si è potuto comunque capire che la rivolta di Nazaro 13 è stata virale. Poche ore dopo che era uscita la notizia, in altre metropoli la gente ha iniziato ad uscire dalle case, iniziando ad occupare le strade. A piegarsi davanti ai primi fuochi, come accaduto anche nella stessa Nazaro 13, sono le banche. In qualche città gruppi di rivoltosi hanno bruciato anche alcune chiese. E se all'inizio questa cosa non era stata ben vista dal resto dei rivoltanti, ben presto i gruppi che hanno messo nel mirino anche l'istituzione pontificia iniziano a diventare sempre più numerosi. L'accumulo di ricchezza dello Stato Vaticano, i pedofili, il terrorismo psicologico attraverso la fede con la conseguente modifica delle menti ad essere le pecorelle di qualcuno, la sottomissione ad ogni forma di autorità, servono solo queste poche cose spiegate bene per far capire che la guerra deve essere totale contro qualsiasi tipo di istituzione autoritaria che fino ad oggi ha violentato le vite di una popolazione mondiale. A Nazaro 13 i rivoltosi aumentano man mano col passare delle ore, sempre più numerosi. Il gruppo più grosso, con circa 5.000 persone, è quello che è partito dall'ospedale ed è arrivato a pochi metri dalla Torre M, che è presidiata da almeno un migliaio di Tarspok in assetto da guerra più che antisommossa. In altri quartieri della stessa metropoli la gente è scesa in strada e stanno praticamente facendo, più che una rivolta violenta, dei picchetti per evitare l'ingresso nei loro stessi quartieri da parte dei Tarspok. Non c'è stato scampo per gli egoisti che volevano rimanere chiusi nelle proprie case. Ogni condominio in ogni quartiere è stato controllato dai rivoltosi e quelle poche famiglie benestanti che avevano fatto orecchio sordo alla rivolta sono state costrette a scendere strada con la forza e a mettere la propria casa a disposizione di tutti. L'alternativa a tutto ciò sarebbe stata la stessa fine che hanno fatto molti politicanti e autorità locali. In altri quartieri, i prima ad essere stati spodestati dai propri averi, case ma anche armi, sono state le famiglie mafiose, che insieme alle autorità avevano praticamente strangolato il popolo. Qualcuno di loro aveva goduto alle prime notizie della rivolta generale, pensando di essere facilitato nel portare avanti i suoi affari. Ma ben presto si è materializzato ciò che non avrebbero immaginato. Un po' come l'Erit che si sentiva potente, intoccabile e al riparo dentro le fogne di Carcelia, anche i mafiosi sono costretti ad azzerarsi e a scendere in strada. L'alternativa è sempre la stessa, per tutti. I Tarspok, anche se in tenuta da guerra, sembrano più interessati a salvaguardare le torri M e G. Nonostante nei primi scontri abbiano avuto anche qualche vittima, hanno l'ordine di non provocare ulteriormente quelli che Navig pensa ancora che siano dei manifestanti violenti. Altri uomini topo vengono mandati nelle fogne a presidiare da sotto le zone più a rischio, mentre gli Insect continuano a controllare da tetti degli edifici tutta la situazione. Navig si trova all'ultimo piano della Torre M insieme ad alti graduati Talspok e guarda dalle finestre ciò che accade fuori. Riesce ad avere una visuale bella ampia e generale, ma il panorama non è più quello che si godeva prima. Le strade sono invase dai rivoltosi. Gli edifici istituzionali sono stati ingoiati dalle fiamme e nuvoloni neri provocati dai fuochi in ogni zona si alzano al cielo mischiandosi alla nube tossica. Il generale, col passare del tempo, viene assalito dalla preoccupazione. Non a caso fa posizionare un elicottero sul tetto della torre nel caso la situazione diventerebbe ingestibile. I cannibali sono sempre stati il fortissimo gruppo che è stato sempre in testa al corteo di rivolta. Anche se qualche ribelle li guarda un po' intimorito, dall'altro lato, col passare delle ore, la fiducia nei cannibali è cresciuta tantissimo. Gli stessi cannibali, gli avvelenati, gli intossicati, le vittime materiali e fisiche dell'avvelenamento della terra, si sono proposti fin dall'inizio della rivolta come testa del gruppo. Non vogliono la testa del corteo per crearsi una figura autoritaria nella rivolta, ma lo fanno perché loro, in fondo, sono già morti dentro, più che fisicamente, e allora meglio non rischiare ulteriori vite. Se c'è da prendersi una soddisfazione contro chi ha distrutto le loro vite, è giusto che siano i primi a goderne attraverso la vendetta. Radiazione 14 luglio 2014, oggi diretta d'azione con letture, controinformazione e soprattutto e anche la musica, no? Soprattutto la musica per prendere un po' d'aria sia noi che per farla prendere a voi che ascoltate le letture su radiazione, ma anche la controinformazione, come ho detto prima. Abbiamo appena finito di ascoltare Assalto a Carcelia, che è il brano che farò uscire ad ottobre insieme a quello che è stato letto prima del brano, che era la parte nuova di Nazero 13, opuscolo, libretto, quello che sarà, e il CD con i brani collegati che sono legati al racconto, usciranno ad ottobre. Benefit per i compagni detenuti. Allora, ricordo che per quanto riguarda le letture stiamo leggendo il libro di Edward Ebbey, I Sabotatori. Stiamo arrivando quasi alla fine, forse un'altra diretta e poi ci togliamo dal cazzo e non ci ascolterete più per un po' di tempo. Allora, ricordiamo gli indirizzi utili di radiazione, radiazione@distici.org per chi vuole mandare scritti, comunicati, a tutto il materiale che si vuole pubblicare attraverso il sito di radiazione, ovviamente solo materiale al fine. Per sito di radiazione, che è radiazione.org, dove quotidianamente potete leggere la controinformazione aggiornata, dove potete scaricarvi un po' di materiale attraverso la pagina di download, ci trovate CD, opuscoli, libri, tutto quello che i compagni mettono a disposizione gratuitamente e senza un prezzo, lo trovate sulla pagina download di radiazione.org. Stesso sito dove potete ovviamente riascoltare, tante volte vi volete far del male ancora, anche i podcast delle dirette d'azione nella categoria ascolta le dirette d'azione o ascoltare la radio in diretta attraverso i player che trovate in home page. Radiazione anche in lingua croata, trovate il banner in sidebar, ci cliccate sopra e vi rimanda al sito in croato, non sono proprio uguali però comunque bene o male si collabora molto con la compagna che porta avanti il sito in croato. Allora, dicevo, oggi penultima, forse molto probabilmente penultima lettura per quanto riguarda I Sabotatori di Edward Ebbey. Ci dilungheremo un bel po', così la prossima volta facciamo l'ultima e poi se ci viene lo sfizio ne facciamo ancora un'altra, però decidiamo se fare una lettura veloce giusto di una giornata oppure toglierci dal cazzo e soprattutto da questa cameretta con l'aria viziata. Allora, ora ci ascoltiamo un brano di The Angels' Pit, Homo Machinery, e poi Marcello con I Sabotatori. puntuale come la morte che deve cogliere costoro, non nel sonno ma durante la veglia, in maniera molto ma molto dolorosa. Durante il caffè mattutino. Durante il caffè mattutino, ci auguriamo. È caduta la connessione, ma vediamo adesso che chi ci stava ascoltando ha ricominciato a farlo, meno uno, quel meno uno che ci ha rotto probabilmente le palle. Ma noi queste cose non le sappiamo. Noi adesso torniamo a seguire le vicissitudini della batteria dei Sabotatori di Edward Abbey. Per chi volesse sapere dove eravamo, c'è stata la diretta passata, mandata in onda dalle 16 quest'oggi, proprio per riaggiornarvi dove eravamo. Ci limitiamo a dire che stiamo scappando con alle costole questa squadra di recupero a soccorso, questa posse di Moderna. La posse, non ci riferiamo ai gruppi rap, ma ci riferiamo a quei gruppi di paramilitari della società civile che risalgono al periodo della colonizzazione dell'Occidente degli Stati Uniti del 1800, ma che appunto si riforma in questo romanzo. I nostri quattro sabotatori stanno scappando, hanno il fiato sul collo, sono scappati per un pelo e adesso ci ritroviamo nel canyon dove la caccia continua. Questo avvoltoio vola alto sopra i Fens, la Land of Standing Rocks. Volare alto è la vita dell'avvoltoio, la morte, la sua cena. Il malvagio e ripugnante spazzino nero di morti e moribondi, la testa rossa pelata e il collo rosso spiumato, il meglio per affondare il suo avido becco nell'interiore della sua preda, si alimenta di corruzione. Catartes aura è il suo titolo latino, deriva dal greco catharsis, che significa purificazione, e aura, la parola greca per aria, emanazione o vapore. L'avvoltoio è il purificatore dell'aria. L'aura viziata. L con l'accento. E con l'accento. Che non si offendano le lauree. Le lauree. Uccello del sole. Il contemplatore. L'unico uccello filosofo conosciuto, da cui la sua serena e insopportabile placidità. Dondolando elegantemente sulle sue ali nere come il carbone, osserva una libellula metallica passare metodicamente davanti e indietro sopra i Fens, sopra le Standing Rocks, facendo un baccano inaccettabile. L'avvoltoio disegna dei cerchi più in alto e muove a scatti la testa corrugata per osservare con sincero interesse, 100 metri più sotto, il movimento di quattro minuscoli bipedi senza ali che si agitano come topi in un labirinto senza tetto, giù per il tortuoso corridoio stretto tra le pareti tondeggianti di pietra rossa. Corrono furtivi da un'ombra all'altra, come se la sabbia fosse troppo calda per i loro piedi, come se dovessero nascondersi allo splendore del sole o ad altri sguardi indagatori dal cielo. Qualcosa di incerto e difficoltoso nell'andatura di due di quelle creature suggerisce all'avvoltoio il pensiero del pranzo, gli riaccende il ricordo della carne. Per quanto appaiano tutti e quattro vivi e vegeti, resta la verità indiscutibile, ragione l'avvoltoio, che laddove c'è vita c'è anche la morte, ovvero la speranza. Fa un altro giro per studiare meglio la situazione, ma quei quattro bipedi laggiù se ne sono andati. Non sapevo che potessero far volare quei maledetti affari anche in canyon così stretto come questo qua, dice lui. E sai che ti dico, anche se dovrebbero fare una bella legge per vietarglielo, fa male al sistema nervoso, rende nervoso tutto il mio sistema. Ho fame, dice lei, e mi fanno male i piedi. Se ci riprovano li tiro giù, dice Aidak, si culla, il fucile tra le braccia. Dolce, orgogliosa arma, la cassa in noce lucidata dal suo sudore, fregata con la mano, il dispositivo di individuazione a raggi infrarossi e blu scuro, otturatore, culatta e canna brillano di una lucentezza serica. Il grilletto, il guardamano, il calcio a scacchi, la precisione rigorosa dell'azione mentre lui apre l'otturatura e ispeziona la camera di caricamento, la richiude e preme il grilletto. Camera vuota, 7 colpi nel caricatore. Ho sete, ho fame, mi fanno male i piedi e sono annoiata, non lo trovo più molto divertente. Beh, spero soltanto che non vedano i segni del nostro passaggio, ma quell'affare lassù, con quello ci possono venire qua giù. Smith, senza cappello, i capelli schiacciati dal sudore, guarda fuori da sotto la sporgenza, fuori dall'ombra, nel caldo, nel bagliore, verso la pietra cotta dal sole, le pareti rosse oblique della gola. Perché se possono è chiaro che dobbiamo trovarci abbastanza in fretta un altro buco, magari subito. Si strofina la faccia lucida e irsuta con una bandana rossa già scura e unta di sudore. Che ne dici, George? Beh, no qui. Ma forse su per il canyon dopo la curva o giù per il canyon. Quegli stronzi potrebbero piombarci addosso anche adesso. Le armi caricate a pallettoni, quelle loro. Se ci vedessero, ci hanno visto. E se non ci hanno visto, ci vedranno la prossima volta. Ma quanti uomini ci stanno in quell'affare volante? Beh, in quel modello direi 3. Ebbene, noi siamo in 4. Haydak sorride amaro. Sì, 4, con una pistola e un fucile. E si volta verso il dottor Sarvis appisolato. A meno che Doc non abbia una bella pistola in quella sua borsa. Doc grugnisce, una replica vaga ma negativa. Forse, aggiunge Haydak, potremmo sparargli con uno degli aghi di Doc. Gli spariamo tutti nel culo del Demerol. E si frega le braccia coperte di lividi e sbucciate, i palmi lacerati. Una dose dovresti fartela tu, dice Bonnie. Non ora, dice Haydak, che quella roba mi stende. Adesso bisogna stare svegli. Pausa. In ogni caso puoi scommetterci il culo. Se ci hanno visto, lo hanno comunicato via radio alla squadra. Nel giro di un'ora saranno tutti qui. Un'altra pausa. Dobbiamo andarcene. Sposto il fucile dall'incavo del braccio, dalla mano destra. Non possiamo aspettare il tramonto. Ti porterò quel fucile per un po', dice Smith. Lo terrò io. Come ti senti? Chiede Bonnie ad Haydak. In risposta riceve un borbottio. Lei stessa sembra vicina alla disidratazione. Il suo viso è paonazzo, madido di sudore, lo sguardo leggermente trasognato, ma ha un aspetto certo migliore del malconcio Haydak, che ha i vestiti strappati e i gomiti e le ginocchia irrigiditi da bendaggi che gli impongono un'andatura da uomo prefabbricato, il mostro creato dal dottor Servis. George, dice lei, lascia che ti dia un'altra dose. No. Ma modifica il suo grugnito. Non adesso, aspetta che troviamo un buco migliore. Guarda Doc. Doc? Nessuna risposta. Il dottore giace disteso sulla schiena nell'angolo più lontano dell'alcova sotto il dirupo, con gli occhi chiusi. Lascialo riposare un po', dice lei. Ma dobbiamo muoverci, ma su, altri 10 minuti. Haydak guarda Smith, Smith annuisce, entrambi. Guardano in su alla stretta striscia di azzurro tra le pareti del canyon. Il sole si è piazzato sul mezzogiorno, ciuffi e code di cavallo di vapore stanno aggrappate alle distese di calore. Uno di questi giorni verrà a piovere, pensò. Uno di questi giorni deve piovere. Non sto dormendo, dice Doc con gli occhi sempre chiusi. Un minuto solo e mi alzo. Sospira. Raccontaci della guerra, George. Che guerra? La tua. Quella guerra, Haydak sorrise. Beh, sarebbe una palla stare a sentire quelle storie. Seldon, dove merda siamo finiti? Beh, non ne sono sicuro, ma siamo nel canyon che credo io. Allora siamo al centro di quelli che chiamano i Fins. Pensavo fossimo nel Maas, dice Bonnie. Non è ancora. Il Maas è diverso, cioè peggio. Quella guerra, dice George Haydak, senza rivolgersi a nessuno in particolare e nemmeno in generale. Vogliono dimenticarla, ma io non voglio, non permetterò mai che quei bastardi dimentichino quella guerra. Parlando come un sognatore, un sonnambulo, parlando non a se stesso ma al silenzio roccioso del deserto. Mai, dice, silenzio, mai. Gli altri aspettano. Quando è chiaro che Haydak non continuerà il discorso, Bonnie si rivolge a Smith. Pensi che troveremo un po' d'acqua abbastanza presto? Bonnie, tesoro. Adesso non deve essere troppo lontana, troveremo dell'acqua qui da qualche parte, altrimenti prenderemo quella che ci aspetta sul lato ombreggiato del Lizard Rock. Acqua e cibo. È lontano? Che cosa? Il Lizard Rock? Beh, vediamo, se intende in chilometri non saprei bene come calcolarli perché questi canyon sono pieni di meandri, inoltre non sono assolutamente sicuro di poter uscire da questo canyon con la parte, dalla parte opposta perché forse è chiuso, forse dovremmo tornare un po' indietro e cercare un'altra via sui lati. Ma non ci possiamo arrivare entro sera. No, dice Aidak fissando la sabbia tra le sue grosse ginocchia bianche fasciate in strati di garza sporca. Mai! E si gratta uno scroto. Mai! Smith resta in silenzio. Bonnie lo osserva aspettando una risposta. Lui strizza gli occhi, inarca le sopracciglia, fa delle smorfie, si friga il collo bruciato dal sole, alza i suoi occhi verdi sopra la parete del canyon. Beh, dice, il suono di uno scricciolo dei canyon. Allora... Beh, non volevo dirti una bugia, Bonnie. Non dirmela. Questa notte non ci arriveremo, capisco. Forse, domani notte. Ma l'acqua la troveremo, voglio dire, presto in questo canyon. Smith si rilassa un po'. Beh, ci sono delle buone possibilità. E le passa la sua borraccia. Qui intorno ci sono dei buoni torrentelli, dovrebbero essere ancora pieni. No, grazie, non la voglio l'acqua, dai. Svita il tappo, gliela mette in mano la borraccia. Bonnie beve e gliela restituisce. Avremmo dovuto tenerci gli zaini. Forse, dice Smith, e se avessimo fatto davvero così, adesso ci troveremo anche noi nella borsa termica del Fry Canyon di Bishop Love, in attesa del furgone dello sceriffo. E Love, quel pazzo figlio di puttana, avrebbe compiuto un ulteriore passo nel suo cammino verso la residenza del governatore, come se il figlio di puttana, ma da facca che c'è dentro adesso, che dello Stato si è venduto tutto quello che ha potuto, non avesse già fatto abbastanza danni. Che vuoi dire? Non capisco nulla. Voglio dire che le persone come Lave, il governatore, non hanno una coscienza. Se pensassero di ricavarci dei soldi, venderebbero la loro madre a Exxon o a Peabody Coal, scambierebbero le anziane signore con del petrolio. Ecco il genere di persone che governa questo Stato, tesoro. Cristiani. Il mio genere di persone. Io non glielo permetterò, mormora Aidak. No, davvero. Smith si muove, prende su il suo cappello. Beh, dobbiamo alzarci, amici. Dai. Dobbiamo fare un po' di strada verso nord. You always tried so hard, but I could forget you all the same. Your concept never happened of love. It's your man betrayed you and your God above. E questi che abbiamo appena ascoltato subito dopo la prima lettura per oggi di I Sabotatori di Edward Ebbey erano i Psycho Beach con il brano Breakdown. Ora si passa alla controinformazione, si cerca sempre di iniziare bene la giornata e quindi si parla subito di un attacco incendiario avvenuto a Santiago del Cile contro la Cooper Carab, cooperativa di consumo dei Carabineros. Io ho messo una nota introduttiva perché la notizia dell'attacco era arrivata già qualche giorno prima alla mail di radiazione, però era mandata da compagni che l'avevano presa dai giornali e quindi c'erano tutte delle supposizioni. Onestamente a me le supposizioni non mi piace farle e quindi prima di pubblicarla ho aspettato che ci fosse un testo rivendicativo. L'azione è avvenuta durante la notte del 30 giugno 2014 nel centro di Santiago in Cile, in Maquiver 245, nello svincolo tra le strade di Huérfanos e Agustinas. Ora leggiamo il testo rivendicativo che inizia con un chiarimento. Secondo i media di disinformazione l'ordigno sarebbe stata una bomba rumorosa, tutto falso visto che il regalo collocato fu una bomba incendiaria, una combinazione di carburante con un innesco chimico che avrebbe causato l'incendio desiderato. Quando scegliamo di attaccare la maledetta detestata polizia, pensiamo a cose che ci danno certezze nel colpire il bersaglio. Forse non quello che ci aspettavamo, un incendio distruttore che ha bruciato tutto il suo totale centro di consumo. Ma sappiamo e vi ricordiamo ancora una volta che mai vi faremo stare tranquilli. Sarete sempre un obiettivo di attacco da parte di coloro che hanno deciso di riprendersi le proprie vite attraverso la lotta. Odiamo la polizia e fin qui nulla di nuovo. E crediamo fermamente che non c'è modo migliore che l'attacco e l'azione diretta. Un percorso senza ritorno del quale siamo convinti e continueremo una e mille volte in più. Abbiamo fatto questa azione in sostegno e adatta alle condanne infernali e sentenza inflitta ai compagni Juan, Marcello e Freddy da parte di questa società miserabile di merda. Non li crediamo, non facciamo parte del loro spettacolo, noi saremo eternamente insorti. Loro potranno dettare le sentenze e le condanne dell'inferno, ma sappiamo che andremo in cerca di essi e gli faremo quello che non possono immaginarsi. Non possiamo non ricordare la nostra cara compagna Sol, che ci sta dimostrando che ovunque sia è in grado di rimanere una indomabile amante della libertà. Un forte abbraccio a lei e alla famiglia irriducibile, grande coraggio e grande forza. Inviamo tanta forza anche ai compagni liberi ad attaccare il nemico senza paura, siamo capaci di tutto. Viva l'anarchia, la disobbedienza e il caos, i fratelli Angry e Punky Mauri vivono in ogni passo della ribellione, un saluto anche a Diego Rios che continua a burlarsi delle autorità, solidarietà con i compagni fuggitivi. E poi sul sito, sotto l'articolo, potete vedere anche le foto dell'attacco a Santiago del Cile. Questa era per quanto riguarda la notizia di controinformazione. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Ambassador 21 con il brano Go Fuck Yourself, va fatti forte, come ovviamente il messaggio è stato lanciato ai Carabineros e noi rinnoviamo anche ai Carabinieri, alla polizia, alla finanza, ai vigili urbani, a tutte le divise. No, attenzione, però i vigili urbani non hanno neanche lo statuto di sbirri, diciamo, sono vigili... Però fanno i morti, a Napoli hanno fatto i morti. A Napoli hanno fatto i morti. Prima settimana che hanno avuto le pistole in dotazione, hanno fatto due morti, quindi. Allora, Ambassador 21, go fuck yourself. We'll be right back. Sono stato prigioniero di guerra, mormora Hydak. Doc apre gli occhi per un istante. Sono stato prigioniero dei Viet Cong, dei Victor Charlie, continua Hydak. 14 mesi nella giungla, sempre in movimento. La notte mi incatenavano ad un albero, tranne quando arrivavano gli aerei. Per quei musi gialli ero più un problema io che un corrispondente di un giornale francese. Mi davano da mangiare riso avariato, serpenti, topi, gatti, cani, liane, bambù, tutto quello che potevamo trovare. Addirittura peggio di quello che mangiavano loro. 14 mesi. Ed ero diventato il medico della loro unità, i piccoli bastardi marroni. Quando arrivavano i bombardieri B-52, le fortezze volanti, ce ne stavamo abbracciati l'uno all'altro nei bunker, abbarbicati insieme come fottuti gattini. Sembrava ci aiutasse ad assorbire gli shock. Ci avvisavano sempre quando arrivavano, ma non li sentivamo mai, visto che volavano così in alto. Soltanto le bombe sentivamo. Eravamo 3 metri, a volte anche 6 metri sottoterra, ma quando tutto era finito, quei piccoli tipi correvano dappertutto con il sangue che gli colava dalle orecchie a causa delle commozioni cerebrali. Alcuni impazzivano. La maggior parte di Viet Cong erano ragazzini, adolescenti, volevano che li aiutassi a pianificare i loro attacchi. Cariche di esplosivo a sacchetto e robe del genere avrei anche voluto, ma no, non potevo, quello no. Così mi hanno fatto diventare il loro medico, una specie di medico. La metà del tempo ero malato. Una volta li vidi abbattere un elicottero con una di quelle balestre d'acciaio di 6 metri che avevano loro. Le avevano infatti costruite per tirare giù gli elicotteri. Quando il figlio di puttana di elicottero si schiantava, loro festeggiavano e anche io avrei voluto festeggiare, ma no, no, non potevo farlo. E quella sera, quando lo abbattemmo, ci fu una festa, cibo in scatola dell'esercito americano e Budweiser, la birra per tutti, Charlie, anche per me, prosciutto e fagioli, però ci li fecero stare male. Dopo 14 mesi, poi, mi scaricarono. Dicevano che ero diventato un peso per loro, ingrati piccoli robot comunisti. Dicevano che mangiavo troppo, che avevo nostalgia di casa e avevano ragione. Mi sedevo in quella giungla putrida ogni notte, giocavo con la mia catena e tutto quello che potevo fare era pensare a casa. E non intendo la casa mia a Tucson, dovevo pensare a qualcosa di pulito, di decente o diventavo matto. E così pensavo ai canyon, pensavo al deserto lungo la costa del Golfo del Messico, pensavo alle montagne da Flagstaff su fino ai Wind Rivers. E così mi lasciarono andare, così mi feci 6 mesi al reparto psichiatrico dell'esercito, prima a Manila, Filippine, poi Honolulu, alle Hawaii, poi Seattle. Per tirarmi fuori i miei genitori ebbero bisogno di 2 avvocati e un senatore del congresso. L'esercito riteneva che non fossi a posto per la vita civile. E quindi, Doc, secondo te, sono pazzo? Assolutamente, dice Doc. Sei uno psicopatico certificabile, semmai ne ho visto uno di psicopatico vero. Prendo anche una pensione, sai Doc, ho il 25% di invalidità, problemi di testa, sono mezzo lunatico. Quando torno dal mio vecchio ci devono essere una decina di assegni che mi aspettano. L'esercito certo non mi voleva far andare, dicevano che dovevo essere processato e riabilitato, dicevano che non potevo mettere la spilla con la bandiera dei Charlie sul mio berretto verde. Alla fine capii. E dissi quello che volevano sentirsi dire. Il senatore fece pressioni sul Pentagono e quando ormai si stava per celebrare il processo, sì, mi lasciarono andare. Motivi medici. In realtà mi avrebbero voluto spedire alla corte marziale, ma mamma non l'avrebbe tollerato. Ad ogni modo, quando finalmente uscì da quel giro di ospedali prigione e scoprì che stavano cercando di fare anche all'ovest quello che avevano fatto a quel piccolo paese laggiù, il Vietnam, andai di nuovo completamente fuori di testa. Hydak sorrise come un leone. È così, così, è come qui tra voi. Silenzio. Un silenzio perfetto. Troppo chiaro, troppo calmo, troppo perfetto. Seldon Zinn si spoglia dalla sua abituale posizione accovacciata, si inginocchia e appoggia il grande orecchio al terreno. Bonnie apre la bocca. Lui solleva una mano di ammonimenti, gli altri aspettano. cosa senti? Niente, scrutando su per il canyon nel cielo, ma qualcosa me la dice l'istinto. Cosa ti dice? Non lo so, qualcosa. Montiamo in sella e spariamo da qui, andiamocene. Doc, ancora stravaccato nell'angolo più fresco dell'ombra, sospira un'altra volta e dice: sento un coto. Un coto con la cappa, un flauto di bambù e un tamburo distante nel cuore del deserto, sotto un grande ginepro, nonno, i zumbakai stanno suonando Ari no Kyoku, non bene. Si asciuga la larga fisionomia matita di sudore con un fazzoletto, ma con assoluta noncuranza, che è come dire, come si dice, al posto e all'occasione. Doc comincia a perdere colpi, spiega Bonnie. È il caldo, dice Doc. Smith guarda giù nel canyon. Beh, meglio se ci mettiamo in marcia, gente. Su una spalla appoggia la cinghia della borraccia, sull'altra la corda arrotolata. Si alzano tutti, Doc per ultimo con la sua preziosa borsa nera, traballando in avanti nella luce abbagliante, il bagliore di mezzodì, sotto il morso infinito del sole. Smith guida la salita nel canyon, camminando dove è possibile sulla roccia. Anche se le pareti del canyon sono altre 30 metri e spesso si piegano su di loro di ombra, ce n'è davvero poca. Troppo secco per i pioppi. Le uniche piante cresciute in vista sono delle dature con fiori avvizziti raccolte in una macchia, un pino morto e alcune serpentarie e licheni sulla roccia. Il canyon piega a sinistra, piega a destra e sale gradualmente verso, sperano, una sorgente nascosta, una polla sconosciuta dove l'acqua fluisca fresca, anche se alcalina, dai pori dell'arenaria per filtrare attraverso giardini pensili di edera, aquileggi, licopodi e mimoli, fino a un punto accessibile. Per una tazza di alluminio il collo di una borraccia, bramano il ticchettio delle gocce d'acqua, il più dolce di tutti i suoni possibili in quel torrido corridoio di pietra chiuso da pareti rosse giganti. Smith indica una nicchia nella parete del canyon, 15 metri sopra le loro teste, si fermano a guardare. Non vedo niente, dice Bonnie. Non vedi quella piccola parete tesoro con le travi che fuoriescono e quel piccolo foro quadrato al centro? Che cos'è, una finestra? Più probabile una porta da cui puoi passare solo a quattro zampe. Stanno osservando i resti di una dimora, Anasazi, nella rupe, abbandonata 700 anni prima, ma ben conservata nell'aridità del deserto. Lassù, nella grotta, aspettano polvere e cocci di vasellame, pannocchi bruciati e un soffitto annerito dal fumo e ossa, vecchie, molto vecchie. I quattro vagabondi avanzano sopra i canaluni pendenti di arenaria, sopra le rocce e il pietriscoli eletti in secca dei torrenti, attraverso la sabbia infinita, attraverso il caldo. Forse è là che dovrei vivere, medita Aidak ad alta voce, in quella caverna insieme ai fantasmi. Beh, non è il mio genere di vita, dice Smith. Nessuno risponde, ma tutti arrancano. Non è stata di grande utilità nemmeno agli agricoltori. Smith continua, arranca. Coltivatori di meloni compresi, prima che fosse inventata l'agricoltura, eravamo tutti cacciatori e allevatori. Vivevamo all'aperto e ogni uomo aveva almeno 20 km quadrati tutti suoi. Poi inventarono l'agricoltura e la razza umana fece un grande passo indietro. Dai cacciatori agli allevatori giù fino agli agricoltori fu quella una tremenda caduta. E il peggio. Devi ancora venire. Non c'è da stupirsi che il raccoglitore di pomodori Caino abbia ucciso il fratello Abele. Un agricoltore prende quei modi, quella via. È come un serpente nell'erba. Vaneggiamenti, borbotta Doc, ma è troppo assetato, troppo stanco, troppo rassegnato per tenere la sua celebrata conferenza sulla civiltà e la nascita della ragione. Dei fiori della storia, la ragione è quello più raro e prezioso. Nessun suono, tranne lo strascicare di otto piedi impiombati. Qui c'è della sabbia umida, dice Smith, da qualche parte lassù deve esserci acqua. guida la sua colonna in un lungo giro intorno alla sabbia rivelatrice sopra un ammasso di pietre e oltre la bocca di un canyon secondario. Hydak, in fondo, si ferma a studiare quel ramo laterale stretto e tortuoso con un fondo piatto e sabbioso privo di qualsiasi forma vegetale, con pareti perpendicolari che si innalzano verso il cielo per 150 metri. Ricorda un corridoio del labirinto del Minotauro. Il cielo, sopra, è ridotto ad una sottile striscia di azzurro rannuvolato che si restringe allorché le pareti curvano. Dove porta questo? Domanda. Smith si ferma, guarda indietro. Su, da qualche parte dei Fins. Di più non so dirti. Non era lì che volevamo andare? Sì, ma questo canyon è parecchio più largo e dovrebbe portare anche questo là, ed è meno probabile che sia chiuso. Questa piccola gola è una scatola. Tutte le volte che mi sono lasciato tentare dai canyon con quell'aspetto sono finito con la faccia contro il muro, intrappolato e senza via d'uscita. Ti fai 200 metri là dentro e scommetto il mio culo che ti ritrovi sotto uno strapiombo di 30 metri. Hydak esita, guarda su per il canyon secondario, poi nel caldo afoso, nelle curve serpeggianti del canyon maggiore. Forse va bene anche questo, forse va bene, dice Smith, ma questo è più grande e poi porta all'acqua. Come fai ad essere così sicuro? Seldom Sin solleva il suo lungo becco ansioso nelle correnti d'aria. L'annusa. Punta di nuovo alla piana distesa di terra umidiccia all'incrocio fra i due canyon, perché buona parte di quella infiltrazione proviene da quella parte. Beh, potremmo metterci a scavare per cercare l'acqua proprio qui, dice Hydak, ma non ne caveresti un granché. Forse a sufficienza per bagnarti la gola, ma perderesti mezz'ora a scavare. Su, per di qui c'è molta più acqua, la sento con naso estinto. Dai, andiamo George, dice Bonnie. Se non troviamo un po' d'acqua al più presto, credo che Doc stramazzerà a terra e io poi finirò come lui. Thank you. questi erano The Bad con il brano Lack of Light. Ora si ripassa alla controinformazione con una notizia degli aggiornamenti che arrivano dalla Spagna per quanto riguarda i due compagni Monica e Francisco. Leggiamo il comunicato che arriva dalla Spagna. Questo venerdì 4 luglio è stato deciso definitivamente che Monica Caballero e Francisco Solar saranno processati per terrorismo. Secondo il giudice, la polizia e la stampa, che in questo caso lavorano fianco a fianco, i due compagni sono legati alla FAI-FRI, un'organizzazione terroristica di carattere internazionale fondata sull'ideologia anarchica insurrezionalista. Ovviamente l'uso di questa sigla, che non ha nulla a che fare nemmeno con la rivendicazione dell'attacco, viene utilizzata per giustificare il processo per terrorismo, dato che l'UE mette questa sigla nella sua lista delle organizzazioni terroristiche. Sempre secondo la stampa e gli atti giudiziari e polizieschi, all'interno di questa organizzazione FAI-FRI, entrambi appartengono presumibilmente al gruppo Sanarquistas Coordinados, GAC. La stampa e in alcuni casi anche la stampa alternativa non hanno cessato di relazionare questa coordinazione con la FAI-FRI, anche se non è altro che una fantasia della polizia, una sovrastruttura indipendente di gruppi violenti nello stile della jihad islamica, ha scritto il periodico di Aragon. Gli altri compagni incriminati nello stesso caso sono stati archiviati. Monica e Francisco sanno bene, e anche se la stampa lo definisce come qualcosa di innovativo, tutti sapevamo che avrebbero continuato con l'accusa di terrorismo. La situazione è la stessa e fondamentalmente ciò significa che il giudice Velasco ha accolto l'ipotesi della polizia come valida per processarli. Sappiamo anche che i due compagni detenuti sono stati felici che gli altri compagni siano stati archiviati dal caso. Inviamo un caloroso abbraccio e incoraggiamento per Monica e Carignoso, che sarebbe il soprannome di Francisco. La solidarietà è più forte delle loro sbarre. Poi sotto l'articolo che trovate sul sito di redazione trovate anche gli indirizzi per scrivere sia a Monica che a Francisco. Questa era per quanto riguarda la notizia di controinformazione. Ora si ripassa, prima di passare alla lettura ci ascoltiamo un brano, lei è Enen Elias con il brano Under Pressure, e poi dopo i Sabotatori di Edward Ebay. Your face is deep under pressure. Your face is deep under pressure. Your face is deep under pressure. Your face is deep under pressure. Tutto ciò a cui riescono a pensare riguarda l'acqua. Eppure ne sono circondati. Cumulo nembi montani, che sono le nuvole, pendono sopra le loro teste pieni di quella roba in forma però vaporosa, carrettate di acqua. In alto, oltre i bordi del tavolato, a 1000 metri da Land's End e per tutta la regione dei canyon, galleggiano enormi nuvole massicce che trasportano festoni di pioggia che evapora quasi tutta, è vero, prima di raggiungere la terra. 600 metri sotto e solo a pochi chilometri più avanti, mentre un uccello vola nel profondo della trincea del Cataract Canyon, il Green e il Colorado, che sono fiumi, rovesciano le loro acque unite giù per le rapide in rombanti tonnellate al secondo. Quanto basta per placare ogni sete, affogare ogni dolore, se riesci a raggiungerla quell'acqua. Aidak si piega a Smith e alla ragione, la gang riprende la marcia sopra rocce, sassi, sabbia e pietrisco e terrazze di arenaria compatta e levigata. Acqua non ce n'è. Girano insieme a un'altra profonda piega del canyon. Smith si ferma a osservare, il gruppo lo raggiunge e si ferma alle sue spalle. 300 metri più avanti, dove il canyon compie la curva successiva, vedono una cozzaia di massi grandi come bungalow, rotolati sul fondo del canyon in maniera disordinata e casuale. Sul lato più distante di quella massa di rocce, a un livello superiore, si solleva dolcemente verde, vividamente vivo nel crepuscolo delle ombre, perché qui le pareti sono malte a tal punto che solo 2 ore dopo mezzogiorno i raggi del sole sono tagliati fuori. Emerge uno splendido esemplare di pioppo. In questo labirinto rosso è l'albero della vita. Giovani pioppi e salici e tamarischi con piume lavanda sono allineati lungo un corso d'acqua che non si vede ancora. Una timida flagranza galleggia nell'aria. La luce nel canyon, sebbene indiretta, è calda e dorata, riflessa e rifratta dalle pareti monolitiche sovrastanti, dove le rondini sfrecciano sotto il bordo roccioso. «I greci!» dice il dottor Sarvis con voce rauca, senza speranza, con la gola riarsa e la lingua pesante. «Furono i primi a prendere piena coscienza!» Cerca di schiarirsi la gola. Smith tiene sollevata la mano. «Doc!» dice con un filo di voce che gli altri faticano a percepire. «Senti anche tu quello che sento io?» Ascoltano. Il canyon pare immerso nella calma assoluta. Una perfezione cristallina, immacolata e senza tempo. Tranne che per un minimo difetto che esagera il silenzio sottolineandolo senza contraddirlo. Il suono di qualcuno o qualcosa che pizzica la corda del sol di un contrabbasso malamente accordato. È un gracidare ritmico. «Cos'è?» domanda Bonnie. Smith alla fine sorride. «Quello, tesoro, è il suono dell'acqua su tra quelle rocce, oltre il pioppo, dove c'è una rana, c'è l'acqua!» Tutti ammirano lo splendido verde dell'albero. «Beh, andiamo!» dice Bonnie. «Che stiamo aspettando?» Fa un passo in avanti. Doc sembra intenzionato a seguirla. «Aspettate!» sussurra Aidak. «Come? Shh, non andate lassù!» Qualcosa nella sua voce, nel suo atteggiamento, li raggela. Sentono di nuovo. Ora il silenzio è completo. La rana, il contrabbasso, hanno smesso e... persino le delicate foglie del grande albero hanno smesso, sì, hanno smesso di tremare. «Cosa senti?» «Niente.» «Vedi qualcosa?» «No.» «E allora perché?» «Non mi piace.» Sussurra Aidak. «Non va bene, qualcosa si è mosso lassù. Credo che siano dopo la prima curva.» «Fermi a guardare la sorgente.» «Che siano chi?» «Come chi?» «Gli uomini dell'elicottero.» «Qualcuno.» «È meglio se ce ne andiamo da qui.» Bonnie fisse piuppi in attesa, i tamarischi e i salici amanti dell'acqua, il riposo statico delle rocce che attendono senza fretta le deliberazioni del tempo e della geologia, la prossima catastrofe. Lei lancia un'occhiata obliqua a Smith, che adesso sta guardando indietro la strada da cui sono venuti. Tu che dici, Smith? Qualcosa ha spaventato quella rana. George ha ragione. E sul viso adorabile di Bonnie compare un'espressione di angoscia. Ma siamo assetati! Si lamenta e compare la prima lacrima. È solo un piccolo ritiro strategico. Ai ai ai, le ritirate strategiche, dice Smith senza tradire emozioni, riportandoli indietro oltre le pietre bruciate e sbiancate dal sole del letto del torrente che sembra non vedere acqua da perlomeno 17 anni. La troveremo l'acqua, non ti preoccupare tesoro, stai lontana dalla sabbia ora, qui non possiamo davvero permetterci di lasciare tracce. Mi spiace molto, gente, ma ho avuto la stessa sensazione di George quando quella rana ha chiuso improvvisamente la bocca. E non è solo la rana, c'è qualcosa che non mi torna laggiù e, per quanto ne so io, non c'è ragione di escludere che possano aver fatto atterrare alcuni uomini oltre quella curva. Bonnie guarda indietro. E perché non ci stanno dando la caccia? Forse sanno che non devono. Non riesco a seguirti. Forse siamo già in trappola. Oh, no, no. Smith fa strada a un ritmo sostenuto a larghi passi che talvolta diventano veri e propri balzi. I grandi piedi, un 46 abbondante, che si muovono lungo linee perfettamente parallele, sbattendo in contrappunto sincrono, senza sprecare un centimetro della preziosa distante. Bonnie e Doc si trascinano dietro di lui ciecamente. Bonnie tira su col naso. Doc farnetica ancora in un vaneggiare folle di Pitagora, razio, aurea, mediocrità, quarterback, greci e linemen nervosi, bancarelle di hot dog di Coney Island, la sua mente da qualche parte ovunque allinea oltre i suoi piedi. Aidak protegge la fila con il fucile imbracciato, si ferma ad ogni passo per guardare indietro, ascoltare il suo cappellino giallo della Cat e nero di sudore. Abbiamo voltato le spalle all'acqua, pensò Bonnie. Vero liquido H2O, a nemmeno un isolato di distanza. Ho visto l'albero, un albero vivo, il primo che abbiamo visto in tutta la giornata. Un albero con le foglioline verdi, come quelli che si vedono sui libri illustrati, con una rana verde e uno stagno verde. Dio mio, la mia mente se ne sta andando. Sono questi i primi segnali, Gesù. La lingua, beh, mi sembra di avere una rana in gola di nome Pierre, buon Dio. Non ci sono più con la testa, e se la lingua diventa davvero nera come dicono, oppure porpora, i denti ti cascano in fuori, gli occhi ti cascano in dentro, i vermi strisciano sulla tua pelle purpurea e così via. E mi sono rotto di questa merda, se non mi danno subito un bicchierone di tè ghiacciato con una fettina di limone mi metto a urlare. Ma non lo fa, soltanto il sole urla, lontano 150 milioni di chilometri, quel folle, incessante grido dell'inferno di idrogeno che noi non sentiremo mai, mai, mai, perché, sogna Doc, perché siamo nati con quell'orrore trillante nelle nostre orecchie e, quando alla fine cesserà, noi non sentiremo nemmeno la quiete solare, allora noi saremo altrove. E non sapremo mai cosa conosciamo, cos'è che conosciamo veramente, si lecca le labbra secche, spaccate. Conosciamo questa roccia apodittica sotto i nostri piedi, quel sole dogmatico sopra le nostre teste, il mondo dei sogni, l'agonia dell'amore, la conoscenza anticipata della morte. Questo è tutto ciò che conosciamo, è tutto ciò che abbiamo bisogno di conoscere. Sfida questa affermazione, io sfido questa affermazione, con che cosa? Non lo so. Io non mi preoccupo, pensa Aidak. Lasciamoli provare, lasciamogli provare qualcosa, i porci fottuti. Qualunque cosa provino, me ne porto 7 con me all'inferno, 7 di loro, per ognuno dei miei. Mi spiace, signori, ma le regole sono queste. Accarezza il lucido legno di noce dell'impugnatura della pistola del calcio, che si adatta perfettamente alla sua mano. Chi ha bisogno delle loro disgustosi leggi del cazzo? chi ha bisogno della loro acqua schifosamente inquinata. Se avrò bisogno mi berrò il sangue. Lasciamoli provare qualcosa, stronzi. Non permetterò che dimentichino. Non permetterò che lo facciano qui. Questo è il mio paese, il mio è di Seldom e di Doc. Eh sì, anche quello di lei. Eh sì, lasciamoli provare, che si fottano tutto. E poi saranno loro nei casini, casini grossi, stronzi. Andiamo a tirare quella linea da qualche parte e magari la tracceremo dritta lungo il Combe Ridge, il Monument Upward per le Book Cliff. Mentre Smith, concentrato sull'obiettivo a portata di mano, pensa soprattutto ai tre innocenti che lo seguono, che dipendono da lui, per trovare una via attraverso il detero dei Finns, per trovare acqua, per trovare una pista per l'Isa Tre Rocche provvista di cibo e acqua, e da là trovare il modo di scendere nel labirinto del mezzo, e la sicurezza e la libertà. È un lieto fine. Smith si ferma improvvisamente. Doc e Bonnie, le teste chine, e Aidak, guarda indietro, vanno a sbattere contro di lui come i Three Stooges, i tre comici di un film muto. Tutti si fermano ancora una volta, nessuno apre bocca. Superata la bocca del canyon secondario che si apre alla loro destra, Smith scruta nel canyon principale verso la prima curva, 500 metri più avanti. Ascolta con l'intensità concentrata di un cervo nella stagione della caccia. Il silenzio, rotto dal derisorio richiamo di uno scricciolo del canyon appollaiato in alto in un punto della parete, il silenzio appare perfetto come prima, una stasi indisturbata, sigillata nel paralizzante caldo stagnante. Ma Smith sente di nuovo quel suono, o meglio, ne percepisce la vibrazione. Piedi. Molti piedi, molti grandi piedi che marciano sulla roccia e strisciano sulla sabbia. Un eco, forse, ritardata da qualche particolare proprietà acustica di questo luogo grottesco, una ripetizione del suono dei loro stessi passi? Eh no, è improbabile. I'm sorry. Questi erano Central Industrial con il brano Implant. Ora si ripassa alla controinformazione. Più che altro, più che controinformazione, è un testo a firma Radiazione dal titolo Tutti al mare, riflessioni estive. Come ogni anno e da sempre con l'arrivo dell'estate, gli individui che per un anno intero sono stati trasformati in batterie per il capitale e che hanno regalato i loro cervelli all'istituzione dello Stato sono pronti ai nastri di partenza per rendere ancora più di merda gli unici due mesi di libertà, tra virgolette, a disposizione. Vorrebbero riprendersi tutto quello che gli è stato negato per 10 mesi e la cosa più triste è la loro convinzione di vacanze meritate, lasciando così decidere al proprio padrone o insegnante se sono meritevoli o meno anche del tempo libero. Fare tutto in 2 mesi quando va bene, altrimenti anche un paio di settimane. È difficile pensare di recuperare 305 giorni in 60, viene l'ansia solo a pensarlo, eppure gran parte o la quasi totalità di lavoratori e studenti riescono ad accumulare questa ansia e come i detenuti già dal primo giorno iniziano a mettere le crocette sui numeri del calendario. A differenza dei detenuti però, questo gregge ad ogni giorno che passa perde sempre di più il sorriso. Ma tanto che cazzo ce ne frega, per 2 mesi cercheremo di non pensare a nulla, molti di loro pensano. Loro pensano. E allora finché son gregge continuassero a mettersi a pecora. Ad una le pecorelle rientreranno nel bel proprio recinto di merda al fischio del loro padrone. La tristezza cala invece quando al posto delle pecore a pensare anche se non lo ammatteranno mai, ma tanto che cazzo ce ne frega, per 2 mesi cercheremo di non pensare a nulla, sono i compagni, gli anarchici. Perché accade, ed è sempre accaduto questo, perché in estate si va a mare o in montagna, si va all'est o a ovest, con la scusa di fare un giro militante, ma negli zaini, oltre a qualche giornale o opuscolo, che serve più che altro a farsi riconoscere e avere ospitalità, ci sono il telo da mare, il costume e la crema solare. Questo accadrà anche quest'anno, l'anno prossimo e gli anni a venire. Poi si tornerà felice a metà settembre per farsi riconoscere politicamente nelle proprie città, si organizzerà subito qualche iniziativa benefit per i compagni detenuti. Per l'appunto, per i compagni detenuti. Gli stessi compagni detenuti di cui chi ha tali modi di fare se ne sbatte altamente per 2 mesi. Allora mi viene da pensare, Marfede e Nicola, che hanno deciso di rivendicare l'azione a nome Nucleo Olga Fai FRI, Gianluca che ha rivendicato i suoi attacchi a nome Fai FRI, Marco Camenisch che dopo decenni di carcere non si è mai piegato e gli è stata negata la libertà anticipata perché ha rivendicato ancora una volta il suo percorso. Ancora i compagni che hanno rivendicato azioni e sono detenuti in Grecia, Spagna, Cile, Messico e in tutto il mondo. Ma tutti questi compagni perché continuano a rivendicare percorsi ed azioni? Chiariamo subito che questa è una domanda a cui io stesso potrei rispondermi e non è una messa in discussione assolutamente delle scelte di tutti questi compagni. Ma chi va in vacanza e chi pensa, ma tanto che cazzo ce ne frega, per 2 mesi cercheremo di non pensare a nulla, lo hanno capito? Ammetto la mia arroganza e mi prendo tutte le responsabilità nell'affermare no. La lotta non è un lavoro, non è una scuola, non si può lottare 10 mesi l'anno per cercare di distruggere l'esistente e poi al 7° giorno Dio si riposò. Non si può desiderare la libertà solo per 10 mesi. L'anarchia, la voglia di libertà sono un sentimento così forte, così alto che o ce l'hai dentro oppure no. E non ci sono siti di controinformazione, blog, giornali, sede, iniziative che reggono. La nostra quotidianità esprime il nostro essere anarchici in tutto quello che facciamo, comprese le nostre contraddizioni. Il nostro essere anarchico non viene e non può essere espresso dalla quantità di iniziative, benefit, numeri di giornali o articoli postati sui siti. Anche se tutte queste cose possono essere indispensabili, questo dipende da quanto in ognuna di queste cose ci si mette in gioco. Soprattutto iniziare a pensare che dovrebbe essere indispensabile se alle parole si aggiungono i fatti. Le parole e i fatti. Le une accanto agli altri, non separati e come 2 piedi dello stesso corpo che quando camminano ognuno di loro supera di poco l'altro e viceversa, ma camminano sempre parallelamente nella stessa direzione. Non vorrei rovinarvi ora le vacanze dicendo queste cose, o forse sì. Non nascondo che ci goderei da matto se minimamente ci riuscissi. Forse quando stenderete il telo sulla spiaggia, monterete la tenda in montagna o farete la vostra vacanza paracul militante, cercando di non pensare a nient'altro che le vostre meritate vacanze e vi risuoneranno queste parole in testa, qualche problemuccio ve lo farete. E forse vi renderete conto che l'esistente non è un castello di sabbia che un'onda improvvisa può distruggere. Sicuramente penso che ne valga la pena dire sempre come la si pensa e poi, come da un anno ripetiamo in radio, chi si offende è un offendente. Per un'estate nera, nerissima, radiazione, luglio 2014, ho detto tutto. ufficiali! La squadra! Sussurrando, Smith indica verso la macchia di sabbia compatta e scurita dall'infiltrazione davanti a loro. State a guardare quello che faccio io, dice. E poi, ognuno di voi fa lo stesso. Guarda Bonnie, la sua faccia arrossata e lo sguardo carico di ansia, e le dà una stretta alla spalla. Osserva Doc, che sta cercando di concentrare i suoi occhi su qualcosa di impalpabile, e Aidak, che invece si guarda intorno con aria di sfida, teso come un coguaro. Avete capito? Bonnie annuisce. Doc sta facendo cenno di sì. Aidak brontola in fretta prima di guardarsi di fronte di nuovo alle spalle. Ok, allora vado io. Smith si gira su se stesso e cammina a ritroso, con il viso rivolto verso di loro, sopra la distesa di sabbia umida. A ogni passo compie un piccolo sforzo in più con il tallone, affondandolo più in profondità, così che l'impronta somiglia a quella di un uomo che cammina normalmente. Cammina all'indietro, in una curva, attraverso la sabbia e fin dentro la bocca del canyon secondario, e su, dentro di esso, fino a che non ritrova la roccia e lì si ferma ad aspettare gli altri. Gli altri lo imitano camminando all'indietro. Spicciatevi, sussurra Aidak. Doc lo segue, muovendosi impacciato all'indietro, guardando sui grandi piedi. Bonnie cammina al suo fianco, invertendo i suoi passi con grazia e attenzione. Poi, finalmente, Aidak raggiunge gli amici, i compagni. Tutti e quattro sono lì sulla roccia e per un momento non possono che ammirare il percorso che hanno inventato. Chiaramente quattro persone hanno deviato per questo canyon laterale. Tu credi che un trucco di questo tipo possa ingannare un branco di uomini adulti? Chiese Bonnie. Seldom si concede un sorriso cauto. Beh, vedi, tesoro, se Bishop Love fosse da solo direi di no, che non sarebbe possibile fregarlo tanto facilmente, ma quando è con la squadra lui diventa un tipo diverso. Un uomo da solo a volte può essere un po' ottuso, ma per la stupidità allo stato puro non c'è niente di meglio che il lavoro di squadra. Si ferma, ascolta di nuovo. Li senti? Sussurra. Ora persino Doc riesce a sentire il trapestio degli scarponi che girano l'angolo del canyon in basso, il suono cupo di voci indecifrabili ma umane che si avvicinano attraverso una camera riverberante di pietra. Sono loro, dice Smith. Muoviamoci, compagni. Metà in ombra, metà sotto il sole, risalgono rapidi la roccia levigata, nuda. Attraversano altra sabbia a prezzo di fatiche da incubo, si arrampicano mani e piedi su lastroni sbriciolati e combattono per guadagnare terreno. Lottano per salire nello spoglio canyon laterale, che prende ad impennarsi mentre si avvicina rapidamente al fondo, probabilmente senza via d'uscita. La trappola all'interno della trappola, le pareti si tendono, lisce e verticali sui due lati, offrendo gli stessi appigli per le dita delle mani e le punte dei piedi della facciata di un palazzo per uffici. Ad ogni piega del canyon, Smith studia le pareti più avanti alla ricerca di un'uscita, di un sentiero qualunque che conduca fuori di lì. Spera di avere a disposizione una decina di minuti per trovare una via di fuga, 10 minuti prima che Bishop Love e la squadra decidano di analizzare una seconda volta quelle impronte di scarpe umane inspiegabilmente uscite laddove avrebbero dovuto plausibilmente entrare. Persino un uomo che ha l'ambizione di diventare governatore non può essere così stupido. Persino lui. Il canyon gira e gira ancora, annodandosi in stretti meandri. All'esterno delle curve le pareti si inarcano sopra il fondo del canyon, formando delle semicupole cave più profonde e più alte della Hollywood Bowl. All'interno delle curve le pareti si sviluppano in modo corrispondente ma opposto, lisce e tondeggianti, sollevandosi così bruscamente dal fondo che Smith Non riesce a immaginare una sola maniera in cui un uomo possa affrontare quelle superfici scivolosi e insidiose. Forse un uomo volante, forse un uomo come Aidak, ma Aidak volante non è. Di colpo, senza preliminare, arrivano alla fine del corridoio. Il prevedibile strapiombo impedisce loro di avanzare. Un parapetto di pietra arenaria e rosa, alto 20 metri, che si curva all'infuori sopra le loro teste con un beccuccio o sfiatatoio nella tacca, dove il prossimo rapido fiotto in preparazione sull'alto tavolato si rovescerà in tutto il suo turgido splendore, ricco di argilla, limo, scisto, alberi sradicati, pietre e lastre di roccia polverizzati. Per scalare questo ostacolo un uomo dovrebbe prima arrampicarsi su un'inclinazione di 90 gradi, poi proseguire sotto la sporgenza appendendosi come un ragno sotto sopra, punta delle dita e dei piedi incollate alle sfaccettature della pietra, il corpo che si fida non solo della gravità, ma della stessa realtà. C'è chi lo ha fatto. Aidak valuta la pendenza. Posso salire lassù, dice, ma mi ci vorrà un po' di tempo, è difficile, avrò bisogno di staffe a pioli, dadi esagonali, chiodi, ganci, martello, punte a stella e bulloni a espansione, tutte cose che non abbiamo. È acqua quella? Chiede Bonnie con la borraccia in mano, inginocchiandosi sul bordo di una pozza scavata sotto lo sfiatatoio. La sabbia bagnata su cui lei si inginocchia è una pozza di sabbie mobili che scivolano lentamente sotto il suo peso, ma lei nemmeno se ne accorge per ora. Al centro della pozza c'è come un catino largo, mezzo metro, composto da qualcosa che somiglia a un brodo torbido che puzza di marcia. Alcune mosche e delle pulci svolteggiano sopra la zuppa. Alcuni vermi e larve di moscerini si contorcono dentro di essa. Sul fondo del catino, appena visibile, c'è l'inevitabile cadavere sbianchito di un centopiedi affogato lungo 20 centimetri. «La possiamo bere questa roba?» chiede lei. «Io, di sicuro», dice Smith. «È quello che è ancora più sicuro, è che intendo farlo. Forza, riempi la tua borraccia, tesoro, poi la filtreremo nella mia». «Dio mio, ma c'è un centopiedi morto lì dentro e poi sto affondando dentro questo fango, Seldon!» Le sabbie mobili tremarono come gelatina, trasudano e gorgogliano. «Cos'è questa roba? Va tutto bene!» le dice. Ti tireremo fuori noi, riempi la borraccia!» Mentre Bonnie riempie la sua borraccia, Aidak prende la corda dalla spalla di Smith e arretra a breve distanza lungo la pista da cui sono arrivati. Ha notato una fenditura nella parete, una fessura che sale abbastanza in alto da fornire un valido punto d'accesso alla curva della cupola più in là, dove l'attrito della sola dovrebbe essere sufficiente a garantire l'ascensione. Una trentina di metri sopra la sua testa la parete si inclina coprendogli la vista. Quello che c'è sopra lo scopriranno quando e se ci arriveranno. Messo si attracolla il perlon arrotolato, mollata giù la cartucciera e appoggiato il fucile, fa un primo tentativo. La parete è verticale alla base, ma la frattura è abbastanza ampia perché ci si possa infilare le mani una sopra l'altra, e la punta dello scarpone è messo di sbieco. Con le dita applica una pressione opposta alla roccia, perché non ci sono punti su cui fare leva per salire e inserire la punta del suo scarpone sinistro delicatamente nella crepa all'altezza del ginocchio. Tirando lateralmente con la punta delle dita ottiene una trazione sufficiente a sollevarsi. Il suo piede destro penzola inutilmente. Non c'è un posto dove metterlo. E allora fa scorrere le dita più su, lungo il margine della fessura, esercita di nuovo una forza laterale, sfila il piede sinistro più in alto e lo inserisce di nuovo. Questo gli permette di salire di un altro mezzo metro. Fa scorrere di nuovo le dita in su, prima una, poi l'altra, alla ricerca di una nuova presa. Avrebbe dovuto sciogliere la corda e legarla, Lo spesso rotolo interferisce nei suoi movimenti, compromette il suo equilibrio. Adesso però è troppo tardi. Solleva il piede sinistro più che può, la piazza più in alto e lo incunea. Il minimo indispensabile a sopportare la pressione di gran parte del suo peso corporeo. Ripete i passaggi di quella tecnica e sale ancora, e sale ancora e ancora. Ora si trova a 4 metri dal piede della parete e la pietra arenaria comincia a curvarsi leggermente, un grado alla volta, via dal piano verticale. Si arrampica 6 metri, 10. La fenditura si assottiglia sopra di lui, riassorbendosi nella sua matrice la parete monolitica, ma l'inclinazione della curvatura favorevole aumenta. Haidak trova qualche supporto per il piede destro, infila di nuovo le mani nella fessura prima che diventi troppo stretta anche per le punte delle dita. È arrivato il momento di attaccare la faccia aperta della parete, che qui curva all'interno come la cupola di una chiesa, all'angolazione prossima ai 50 gradi. Haidak cerca tentoni verso l'esterno, le sue dita percorrono la pietra cercando un appiglio, una qualsiasi protuberanza, una scaglia, un taglio, un angolo, il più piccolo dei buchi. Niente, niente tranne la trama fine abrasiva della parete del tutto indifferente. Beh, allora si può contare solo sull'attrito e nient'altro. Se solo avessi i miei ganci, un cuneo oppure una lama RURP, uno stura lavandini, un paio di grandi tette sui gomiti, ma non ce li hai, devi avere fede nell'attrito. È arrivato il momento di ritirare quel piede sinistro dal vertice alto della spaccatura. Haidak esita, naturalmente guarda in basso, è un errore naturale. 3 facce pallide messe in ombra dai cappelli, 3 piccole figure umane stanno guardando in alto verso di lui. Sembrano molto distanti, molto in basso. Tengono in mano le borracce ora piene di acqua scura. Nessuno apre bocca. Stanno aspettando che cominci a scivolare, ad allargare i suoi arti, a rotolare giù, a schiantarsi, a deformarsi sulle lastre fessurate sotto. Nessuno apre bocca, un respiro potrebbe essergli fatale. Esposizione è la parola. Per alcuni istanti prova il panico cieco dell'arrampicatore non legato e senza aiuto. La nausea è il terrore. Impossibile salire, impossibile scendere, impossibile stare dov'è. Una condizione che ben conosciamo. I muscoli del suo polpaccio sinistro cominciano a tremare e il sudore filtra goccia dopo goccia attraverso le sopracciglia fin dentro gli occhi. Con la guancia e l'orecchio premuti contro il basamento della regione dei canyon percepisce, sente, condivide il battito di un cuore massiccio, un pesante mormorio sepolto sotto le montagne vecchio come l'era mesozoica. Il suo stesso. Un suono tambureggiante e sotterraneo, pesante, spesso e remoto, il suono della paura. Dottor Sardis, chiama qualcuno lontano anni, una voce di fantasma come l'urlo del Minotauro sperduto dalle innumerevoli curve degli innumerevoli canyon affondati in questo labirinto di roccia rossa. Dottore! Sollevando la testa, Haidak si protende dalla cupola spostando il peso del suo corpo sul piede sinistro. Nel suo scarpone con la suola scolpita, lo scarpone sostenuto dalla roccia curva, nulla di più. Sfila con cautela il piede sinistro incuneato e lo piazza di fianco al compagno rimanendo in posizione eretta. L'attrito funziona. Ora non potrà che salire. Il rumore dell'elicottero si solleva oltre le pareti, le cupole, le pinne e i pinnacoli. Non importa, quello può aspettare. Proseguendo l'ascensione, un passo sicuro dopo l'altro, Haidak pensa: siamo destinati a vivere per sempre, oppure a sapere perché No. Allora, questi erano Earth Revolution con il brano Kill Your Radio. Ora diamo una breve notizia di controinformazione e poi dopo l'ultima lettura per oggi di Nazero 13, così lasciamo spazio agli ultimi due capitoli di I Sabotatori, così diamo un filo un pochino più continuo alle letture. Allora, la breve notizia di controinformazione è che l'11 luglio c'è stata la sentenza in appello per Alfredo e Nicola a Genova, in cui sono state riconfermate le condanne. Ricordo che i due compagni avevano rivendicato attraverso due scritti diversi l'azione e il ferimento del amministratore delegato Roberto Adinolfi. Ora passiamo a Nazero 13. Gli edifici che ospitano per quasi il 70% di uffici nella zona della Torre M vengono assaliti e dati alle fiamme. Ogni ufficio è un simbolo del capitalismo e delle istituzioni, quindi questi tristi luoghi iniziano a vedere la loro fine, in un effetto domino, man mano che la rivolta avanza. A pochissimi metri dalla Torre M c'è il luogo istituzionale per eccellenza di Nazero 13, il comune. Là dentro, uomini e donne di potere da sempre prendono decisioni sulle nostre vite. In quell'edificio una manciata di uomini e donne ci sono perché scelti dal popolo attraverso le elezioni, e proprio del popolo questi miserabili si sono nutriti per secoli. Ma il popolo ora è a pochi metri e non è più disposto a far da pasto per i governatori. Lo stesso sindaco e alcuni assessori sono parte, come Navig, dei soci della società del termovalorizzatore esploso. quell'esplosione che ha scoccato la scintilla per la rivolta e che se non fosse avvenuta, molto probabilmente Na 013 a quest'ora sarebbe avvolta nella quiete noiosa di un qualsiasi giorno, con la gente al lavoro o chiusa nelle case ad assuefarsi di sostanza FB, con le strade vuote e presidiate ogni 300 metri da Tarspok. La stessa Carcellia sarebbe ancora là, la fortezza inespugnabile, perché la rivolta nel carcere fognario con la conseguente evasione è dovuta alla pioggia acida infiltrata nei tombini che ha corroso parte dei cavi della centralina del computer. Quell'esplosione che ha creato la nube viola, tossica e radioattiva che da mesi è stagnata sul cielo di Na 013. La stessa nube che con piogge radioattive ha fisicamente trasformato in cannibali anche nei geni la popolazione sopravvissuta nell'area nord e molti nel centro della stessa metropoli. Un ultimo sguardo pieno d'odio verso quel palazzo e poi, approfittando che a salvaguardarlo sono solo 3 blindati di Tarspok, parte l'assalto. A finire per prime e letteralmente nella gola dei rivoltosi sono gli uomini topo, che vengono presi alla sprovvista anche se la situazione non permetta di sottovalutare niente per loro. Una lunga scia come quella di un aereo, ma di sangue, di Tarspok, segue i rivoltosi mentre si accingono ad assaltare la fortezza. Sindaco e assessori sono riuniti in urgenza per studiare insieme alle autorità Tarspok le misure da prendere contro la rivolta. Ora sono barricati tutti nella sala consiliare, dopo aver visto cosa accadeva dalle terrazze, ma non c'è barriera che possa reggere l'urto con centinaia di assetati di vendetta. Per il momento le barricate sembrano reggere ed il sindaco approfitta per fare un appello ai rivoltosi. Per favore, statemi a sentire, sono il vostro sindaco. Per un attimo i rivoltosi con in testa sempre gli intossicati si fermano e cercano di capire quali sono le ultime parole del sindaco, che non sa cosa dire e cerca di dare rassicurazioni per il futuro prossimo. È una situazione incresciosa, ma noi come istituzioni stiamo già cercando di rimediare. È già pronta una struttura ospedaliera che si prenderà cura dei malati intossicati dalle radiazioni. Abbiamo bisogno della collaborazione di tutta la popolazione. Un attimo di silenzio precede lo sfondamento delle barricate da parte dei rivoltosi, ma ad entrare nella sala sono solo gli intossicati, mentre altri guardano la scena macabra. Altri ancora controllano ogni centimetro del palazzo per assicurare che non ci siano più sopravvissuti in quel luogo di potere dopo il loro passaggio. I corpi del sindaco e degli assessori vengono praticamente svuotati di tutti gli organi e come dei sacchi vuoti vengono appesi alle 3 aste delle bandiere che pendono dalla grande terrazza centrale dell'edificio. Col sangue delle vittime viene fatta una scritta su un grosso telo bianco trovato sul luogo. Da secoli vi siete nutriti del popolo, ora ci siamo ripresi solo una parte del vostro corpo, cresciuta alimentandosi delle nostre vite. Uno dei cannibali poi sale sul tavolo, che una volta era del sindaco, ed incita gli altri suoi compagni di rivolta. E questi ce li siamo tolti dal cazzo, anche se mi resteranno un po' sullo stomaco. Poi si lascia andare in una risata piena di vita, nonostante gliel'hanno rovinata. Il doppio senso della frase scatena la risa generale dei rivoltosi in uno dei primi momenti di distensione da quando è partita la rivolta. Poi l'uomo cerca di riprendere l'attenzione da parte di tutti. Di solito prima di assaltare una fortezza tocca combattere con l'esercito, noi abbiamo fatto l'inverso, ma non ci accontentiamo di questo. Ed ora regoliamo i conti con chi ha sempre tutelato i governatori, il loro esercito, quello schifo di esercito creato in laboratorio. Prima che oltre alle radiazioni ci colpisce una leptospirosi, derattizziamo la città. Un urlo di assenso come quello di una ciurma pirata che ascolta il suo comandante prima dell'assalto ad una nave nemica si alza nella sala consiliare del comune. L'urlo viene sentito dalle migliaia di rivoltosi che non sono riusciti ad entrare nel palazzo e ne hanno approfittato per coprire le spalle a chi aveva avuto la fortuna di entrarci per primo e vendicarsi in prima persona. Qualche secondo dopo, un altro urlo parte da tutti quelli che erano rimasti fuori dal palazzo, che si alza così forte e pieno di rabbia che sembra quasi frantumare la nube tossica immobile sulle loro teste, che fa vibrare le pareti della Torre M e fa tremare dalla paura Navig e tutti i suoi uomini topo. I refrattari intanto sono arrivati nella metropoli e davanti gli si presenta uno scenario che fino a un'ora prima era impensabile per loro. I ribelli annusano la rivolta, anche se essa sta avvenendo nella sua grandezza a circa un paio di chilometri da dove ora si trovano. Ma i primi quartieri occupati dalla popolazione, i primi fuochi, le prime banche distrutte e incendiate, quasi a purificare quelle pareti intrise del sangue delle vittime di ogni guerra, tutto questo lascia capire ai refrattarios che non è una manifestazione, è soprattutto una conferma di quello che hanno sempre pensato. Non c'è stato bisogno di accompagnare la gente per mano sul viale della rivolta. La scintilla dell'insurrezione che crea il cortocircuito nel sistema scocca all'improvviso e solo così, arrivando improvvisamente, può ottenere il risultato desiderato. We want total war. È così, tanto per questo la sicurezza. Adesso abbiamo bisogno di un appiglio e lo trova immediatamente. Una cingia stretta ma solida che degrada sulla linea di caduta della parete, la via giusta, dove uno o due secoli prima un lastrone ha ceduto di schianto ed è scivolato frantumandosi in quella montagna di frammenti su cui si trovano ora gli amici di Aidak. Lui guarda in su. Ad attenderlo c'è un lungo declivio di pietre sparse con rocce a forma di hamburger su piedistalli, alcuni letti da riposo in pietrisco, qualche arbusto, rose di montagna, yucca e ginepri storti e ritorti, mezzo morti e mezzo vivi. La via conduce su nei misteri pietrificati dei Fins verso, lui spera, Lizard Rock e infine il Maze. Avanti il prossimo! Urla Aidak, sistemando un'estremità della corda intorno alla vita e lanciando il rotolo nello spazio. Il nodo scorsoio volteggia e raggiunge gli altri 30 metri sotto, 10 metri in abbondanza. Laggiù, tra i neofiti, c'è una qualche resistenza, ma alla fine Smith e Bonnie riescono a ridurre Doc a più miti consigli a impegnarsi nell'ascensione. Smith stringe la corda sotto il grande torace di Doc sopra la plancia, gli appende il suo kit medico alla cintura e lo solleva aiutandolo nei primi passi. Doc naturalmente è terrorizzato, ma si sente anche corroborato dalla sorsata d'acqua che, per quanto calda e sporca, sta erorando il tessuto spongioso delle sue cellule. All'inizio cerca di procedere a quattro zampe in stile ameba sulla roccia, un sudato millimetro alla volta, ma non va da nessuna parte. Lo convincono che deve lasciarsi andare all'indietro, in diretta violazione di ogni buon regola di buon senso e dell'istinto, e deve camminare su per la parete, lasciando che Aidak lo aiuti a salire la corda in piena tensione e sfidare la forza di gravità. In qualche modo fa quanto gli viene detto e poi crolla ai piedi di George Washington Aidak, strofinandosi la faccia. Poi è la volta di Bonnie, carica di borracce gorgoglianti. È una cosa ridicola, dice, assolutamente ridicola. Se mi lasci andare, George Aidak, sei un porco e giuro che non ti parlerò mai più. Pallida e un po' tremante si diede. Una volta arrivata si siede accanto a Doc. Il rumore dell'elicottero che incrocia da qualche parte non lontano, traguglie, torrette e cupole alla ricerca di qualcosa, di tutto. Magari solo di un posto dove atterrare e non trovare altro che un paesaggio alieno di rocce in piedi, file parallele di pietre piatte, alte 100 metri, che si assottigliano verso l'alto, appoggiate sul loro bordo, i Fins. Ma almeno non è il Maas, pensa il pilota, pensa Aidak, che anche lui non ha nessuna familiarità con la regione, ma almeno lui, Aidak, ha entrambi i piedi per terra, sulla roccia solida, più un resistente e flessibile cordone ombelicale assicurato intorno ai fianchi che lo collega a Seldon C. Smith in attesa fuori del campo visivo sotto l'emisfero di Arenaia. Non scordare laggiù le mie armi, si raccomanda Aidak. Dottor Sarvis, chiama qualcun altro, con una voce megafonica, taurina, grottescamente amplificata, rimbombando su per il canyon da una qualche sorgente nascosta molto più vicina di prima e sempre più prossima. Dottore, abbiamo bisogno di lei! Doc è seduto a fianco di Aidak, si asciuga le sopracciglia, ancora pallido per l'esposizione e la paura, e trema come un cavallo azzoppato, con le dita malferme cerca di riaccendersi il sigaro, ma il contatto non riesce. Riesce invece quello tra la fiamma e le dita. Dio cane! Dottor Sarvis, abbiamo ancora bisogno di lei! Nessuno fa molto caso a questa voce incorporea. E perché dovrebbero? Chi può crederci? Ognuno la interpreta come un sintomo della propria follia. Bonnie si frega un fiammifero per lui e accende il sigaro del dottore. Povero Doc. Gli acrofobi si appoggiano l'uno all'altro. Grazie infermiera, mormora il dottore, recuperando un certo controllo. Mamma mia, che posto assurdo! E si guarda intorno. Roccia nudo, nient'altro che roccia nudo ovunque ti giri. È un mondo di un sogno surrealista, infermiera? Da lì, tanghi, sì, tanghi, il suo paesaggio. Che sta facendo George là con quella corda? Se no, sta attento, qualcuno lo tirerà giù dal suo trespolo. Sta aspettando Seldon, tesoro, fatti un altro goccio d'acqua. Smith! Urla Ida, che cazzo stai aspettando? Arrivo, la piglio e pronto? Da un pezzo! Aidak chiama, raccolta le sue forze, aspetta, facciamo una verifica e dà uno strattone alla corda. Aidak non si sposta di un millimetro. Dammi tensione, ce l'hai! Smith arriva camminando sul muro. Una mano dietro l'altra e su per la corda, i piedi piatti contro la roccia, raggiunge il gruppo e molla la corda. Respira con un certo affanno, ma ha l'aria sollevata. Cosa stavi facendo laggiù? Chiese Aidak. Dovevo pisciare. Dottor Sarvis, per favore, dottor Sarvis. Ma che diavolo è? Chiede Aidak. Ah, sembra la voce di Dio, dice Bonnie. Ma con un accento country western, proprio quello che temevo. Passami il fucile, dice Aidak, è il cannone. Sia pur riluttante, Smith glieli passa. Voi cominciate a salire il pendio. George si allaccia alla cartucciera. Vedi, George, andate. Ehi, dottor Service! Nessuno si muove. Guardano giù nel canyon per capire la direzione da cui può essere arrivato il potente. Il rumore di scarponi pesanti che avanzano nella sabbia e nel pietrisco, passando attraverso i cespugli. Doc Service! Deve essere uno con un megafono, mormora Aidak, un trucco escogitato dal vescovo. Beh, solo che a me non sembra per niente il vescovo. Guarda indietro, stanno trascinando qui qualcosa, non facciamoci vedere. Aidak tiene il fucile puntato verso il basso, armeggia nervosamente con l'otturatore, infila una cartuccia nella camera, chiude l'otturatore. Aspettano. Tengono lo sguardo fisso sulla curva della parete del canyon mentre i piedi, dal passo pesante, si avvicinano. Appare un uomo massiccio e robusto, 90 kg per 1,80 m, che suda come un porco, ha la barba incolta, la faccia paonazza, l'espressione ansiosa. Dalla sua spalla penzola una grossa borraccia. Si ferma, tenendo il megafono a pila in una mano, una maglietta bianca sporca che scende come una bandiera da un bastone nell'altra, e scruta il box vuoto del canyon, inconsapevole della gang 30 metri sopra di lui che lo sta guardando. L'uomo ha qualcosa che ricorda Bishop Love, effettivamente, ma non convince del tutto e non è armato. Che cosa vuole il bastardo? Sussurra Aidak. Quello non è il vescovo, dice Smith, è il fratello più piccolo, è Sam. I loro sussurri viaggiano. L'uomo guarda in su, prima verso sinistra, la parte sbagliata, non sentendo i suoni originali ma le loro eco. Da quella parte vede soltanto il soffitto ombreggiato dall'alcova reale che si inarca sopra la sua testa, alta 60 metri. Siamo qui, Sam, dice Smith. Che ci fai qui? Ti sei perso? Sam li scorge e solleva la maglietta sporca in uno stanco gesto di resa o di negoziato. Negoziato. Porta il megafono alla bocca. Smith alza una mano. Riusciamo a sentirti anche senza quella maledetta cosa. Che cosa hai in mente, Sam? Abbiamo bisogno del dottore, dice il fratello del vescovo. Ah, lo sapevo, mormora Aidak selvaggiamente. E perché? Avevo capito che stavano preparando qualche trucco. Controlla le nostre spalle. Bonnie lo ignora. Il vescovo ha avuto un attacco di cuore o una specie di infarto, non so bene che cazzo possa essere, ma direi che è un attacco cardiaco. Doc solleva la testa con interesse. Beh, chiamate il vostro elicottero, suggerisce Smith, lo fate trasportare all'ospedale. L'elicottero lo abbiamo fatto venire, ma non riesce ad atterrare a meno di 1,5 km. Noi abbiamo bisogno subito di un medico. Descrivi i sintomi, mormora Doc allungandosi, cercando di prendere la sua borsa nera. Bondi gli mette una mano sulla spalla. No, non farlo. L'uomo sotto si rivolge direttamente al dottor Service. Dottore, strilla, non può venire con me, abbiamo assolutamente bisogno del suo aiuto. Ma certo, mormora Doc battendo le palpebre, sempre impegnato nella conquista della borsa nera, legato dietro la schiena, non riesce a liberarla. Arrivo subito. No, strepita Bonnie. Digli che non fai visite a domicilio, solo in studio e su appuntamento, grida Sam. Torno subito, mormora Doc, riuscendo in qualche modo ad alzarsi. Tira la borsa sul fianco, gli occhi adesso sono un po' più chiari. George, dice, la corda è un trucco, borbotta Aidak, stupefatto. La corda, George. Doc prende un'estremità della corda e comincia a legarsela intorno alla pancia, incrociando un improbabile nudo. Le mani gli stanno ancora tremando. Emette volute di fumo dal suo sigaro. Ora scendo, mormora l'uomo sotto, che non lo sente. Doc! Doc Service! Urla l'uomo. Sto arrivando! Qualcuno glielo dica, George! Dammi una mano con questa corda, ci vuole una sutura fissa, giusto? Non ricordo come si fa. Cristo. George si avvicina, disfa il nodo incrociato e lo trasforma rapidamente in uno scorsoio. Ascolta attentamente, Doc. Attacca. Non hanno nessuna prova del tuo coinvolgimento. Certo che no. No, stammi a sentire, interviene Bonnie. Questa non è una buona idea, ti sbatteranno in prigione, non ti lascerò andare, tutto quello che dobbiamo fare. Bonnie gesticola confusamente verso la roccia silente più in alto, i meditabondi monumenti blasé di pietra, quella città morta, quell'obitorio giurassico. È arrivare lassù quello che dobbiamo fare, in qualche modo, e poi raggiungere il MAS. Seldon dice che una volta arrivati non potranno mai trovarci. Calma, calma Bonnie, piccola, dice Doc abbracciandola. Ho un buon avvocato, caro ma in gamba. Torneremo insieme più avanti. In fondo non possiamo continuare ancora per molto con questa storia. D'altra parte c'è... Un minuto e arrivo, grida l'uomo in attesa. Lo sai, il mio giuramento, tutte quelle balle di Ippocrate. Adesso non posso fare di ippocratico ipocrita, capisci? Sono pronto, George, calami giù. D'accordo, dice Aidak, preparandosi ad assicurarlo, ma non dire niente a quegli stronzi, Doc, non ammettere una sega, lascia che trovino loro le prove. Sì, sì, certamente, mi spiace che non abbiamo tempo per, beh, insomma, per salutarci. Doc muove il capo in direzione di Smith. Bravo uomo, tieni questi imbecilli alla larga dei casini, riguardati, George, Bonnie, non andare. Doc sorride, chiude gli occhi, si lascia andare all'indietro e oltrepassa il bordo, scendendo con movimenti convulsi lungo la parete, la borsa appesa alla cintura, entrambe le mani serrate disperatamente, le nocche bianche intorno alla corda, e tiene gli occhi chiusi mentre Aidak ripete le consuete istruzioni. Sta indietro con la schiena, Seldon, ma meglio se vieni a darmi una mano. Indietro, Doc, i piedi piatti sulla roccia, non stringere quel cazzo di corda come se la dovessi strangolare, continua a scendere, Doc, così va bene. E pianse. Thank you. without this Bonnie osservava basita. Doc, guaisce. Doc raggiunge o più esattamente viene calato fino ai piedi della parete. Sam Love, il fratello di Bishop Love, slega la borsa medica, slega la corda per l'arrampicata e assiste il dottore nel passaggio sopra la frana verso la pavimentazione del canyon. Doc saluta con il braccio i suoi compagni, poi si avvia per il canyon, fianco a fianco con Sam che gli regge la borsa. Ci vediamo presto, Doc, gli fa Smith. Sta attento e cura quel figlio di puttana del vescovo e fatti pagare in contanti, non prendere assegni. Doc saluta di nuovo, senza voltarsi. Andiamocene di qui. Aida che comincia a rotolare la sua corda tirandola su. Aspetta un attimo, dice Bonnie. Vado giù anch'io. Cosa? Mi hai sentito bene? Oh merda, oh benedettissima merda. Niente oscenità, per favore, mi devi solo legare bene. Beh merda, aspetta un attimo che finisca di tirare su la corda. Non mi devi calare giù come un bambino, farò una discesa a corda doppia. Bonnie si infila qualcosa, una bandana appallottolata, nella parte posteriore dei jeans e si mette a gambe divaricate sopra la corda. Che corda fortunata, pensa Smith tra sé e sé. Legami bene e taci. Si passa la corda tra le gambe, lungo la schiena, sopra la spalla. Legami, maledizione. Non puoi farlo in quel modo, la corda non è messa bene. In ogni caso, dove cazzo pensi di andare? Secondo te? Ma tu adesso sei la mia donna. La voce di Aidak si incrina simile al belato di un amante. Merda! Ringhia recuperando prontamente. Che cazzo hai in quella testa? Bonnie si volta verso Smith. Seldom, ordina. Dammi una mano tu. Smith esita mentre Aidak tira bruscamente la corda ora legata intorno alla fragile struttura di Bonnie Abzug. Diavolo, Bonnie, dice Smith. E si schiarisce la gola. Buon Dio. Oddio, cane, dice Bonnie. Ma con che razza di rammolliti bambocci ipocriti sono finita? Me lo chiedo davvero. La corda è nella giusta posizione per la discesa, un'estremità ancora intorno alla vita di Aida. Clay arretra verso la parete. Se non mi dai un buon appiglio verrai giù con me. Gesù Cristo, sbuffa Aida, indietreggiando fino alla piglia di roccia, ripiazzando sensibilmente e stabilmente i suoi scarponi. Solo un secondo, non farlo! La guarda in maniera torva. Davvero mi chiedo come farete voi due a sopravvivere senza di me. O come farò io a sopravvivere senza il brillante, elegante loco di Giorgi, quei suoi modi così teneri e raffinati. Pausa. Cafone! Io me ne vado con Doc. Tu sei fuori, disse lui tirando la corda. Senti chi parla. E arretra. George, Smith che parla. Lasciala andare. Tu non ti picciare. Lasciala andare. Tu non ti picciare, Seldon, dice Bonnie. Con questo animale me la vedo io, strattonando la corda. Prova a piglio. A piglio pronto, replica Aidak, tenendosi automaticamente. Metà della corda giace arrotolata ai suoi piedi. Bonnie comincia a scendere sopra la cupola di arenaria, la corda tesa che sfrega i suoi jeans e la camicia con una pressione tale da costringerla quasi a piegarsi in due. 30 metri di discesa, 25, 20. Dalla sua posizione Aidak riesce a vederle soltanto il cappello, la testa e le spalle, poi soltanto il cappello, poi più niente. Bonnie è sparita. Corda! Implora una vicina, una vocina terrorizzata da sotto. Aidak molla la corda. Dovrei lasciarla appesa lì, piccola puttana testarda. Da quando l'ho incontrata mi ha procurato solo grane, porca troia. Seldom, non l'avevo detto subito che non volevo ragazza del cazzo in questa cazzo di organizzazione? Non l'avevo detto, certo che l'avevo detto. Portano solo rogne e casini. La corda vibra come quella di un arco nella sua mano, una linea retta e euclidea dal suo osso iliaco fino alla modanatura della parete del canyon. Dove sei adesso? Ringhia. Nessuna risposta. Seldom, riesci a vedere che cosa sta facendo quella figa pazza laggiù? Un debole pietoso grido giunge da molto più in basso. La corda è finita, dammi più corda, bastardo! Smith dà un'occhiata oltre il bordo. È quasi arrivata, George. Falla scendere di altri 6 metri. Cristo, continua Aidak. Le lacrime che gli bagnano le guance irsute, brillando come perle liquide lungo i lati del naso e del fitto sottobosco della mascella e della mandibola. Se pensi a tutto quello che abbiamo fatto per lei, che si fotta. È proprio quando ci eravamo quasi, se la fila così. Solo perché è dispiaciuta per Toc. Beh, sai che ti dico? Raffanculo! Affanculo, Seldom! Continueremo senza di lei, punto! Vada affanculo! La corda adesso è lenta nelle sue mani, ma lui sembra non accorgersene. È arrivata adesso, George, dice Smith. Tira sulla lenza. Ci ha lasciato. Addio, tesoro. E glielo dice mentre Bonnie cammina al centro del fondo del canyon, affrettando il passo per raggiungere Doc. Bonnie si ferma e lancia un bacio a Seldom e, con un largo sorriso trionfante stampato sulla sua faccia adorabile, appare radiosa. Gli occhi luccicano, il sole le illumina i capelli. Saluta con la mano anche Aidak. Ciao! Lui arrotola la corda con l'aria stordita, non replica. Difficile accontentare gli psicopatici maniaco-depressivi, non la degna nemmeno di uno sguardo. Anche a te, coglione! Urla lei allegramente, spedendo un bacione ad Aidak. Lui alza le spalle, continuando a ravvolgere la sua preziosa corda. Bonnie Hubzu grida, si gira e scappa via. Silenzio. Ancora più silenzio. Adesso mi è venuto in mente il terzo precetto, dice Smith sorridendo al brutto, melanconico sudicio Aidak. Non andare mai a letto con una tipa che ha più problemi di quanti ne hai tu. La faccia di Aidak si rilassa in un sorriso trattenuto a stento. O quasi. Quanti ne hai tu, aggiunge Seldom parlando solo a se stesso. La luce del sole si riflette sulle pale rotanti, fuoriesce dalla bolla di plexiglass, mentre l'elicottero da ricognizione passa rapidamente come un ripensamento attraverso le fessure del cielo nuvoloso tra due pareti di canyon torreggianti a 1 chilometro di distanza. Le vibrazioni si allargano verso di loro, i cerchi si allargano e si stringono. Un lazzo trasparente che scende in ampie curve dal paradiso. Smith raccoglie le borracce. Aidak si mette a tracolla il fucile. Si arrampicano mani e piedi per il pendio roccioso, figure minuscole su un'enorme faccia senza occhi scolpita nell'arenaria. Due piccoli, piccolissimi esseri umani perduti in un regno smisurato di torri, mura, strade vuote, una metropoli abbandonata di roccia e ancora roccia, nient'altro che roccia, silente e disabitata da 30 milioni di anni. In quella nuda distesa puoi sentire le loro voci anche a 1 chilometro di distanza, mentre si contraggono e rimpiccioliscono in lontananza e in profondità, molto simili dal punto di vista dell'avvoltoio a minuscoli frenetici insetti. George, dice una voce esile, incredibilmente remota ma nitida. Porca miseria, George, sai che non immaginavo potessi farcela. Quando si sarebbe arrivati al dunque, ero sicuri che saresti rattrappito come le palle di un vitello o magari ripiegato come l'uccello di un toro sgocciolante e pisciato via come un serpente malato. Perché? Seldom seen, stronzo mormone con il naso da condor, io posso fare quello che voglio, se lo voglio. Per di più lo voglio e per di più loro non riusciranno mai, dico mai e intendo mai, assolutamente mai, a prendermi. No, mai. E nemmeno tu, se ti può servire. Le microvoci svaniscono, ma non del tutto. Lo sproloquio e le risa riecheggiano e riecheggiano per chilometri. L'avvoltoio allarga il suo sorriso deforme. Lei è in stato di arresto, dottor Sarvis. Credo che sia giusto comunicarglielo prima che veda Dudley. Doc fa spallucce, restituendo a Sam la sua borraccia. Ovviamente, dov'è il paziente? Lo abbiamo sdraiato sotto quel pioppo dove ci sono quegli altri uomini. E anche lei, sorella. Sorella? Bond riflette, ma solo per un istante. Non chiamarmi sorella, fratello, a meno che le tue intenzioni non siano serie. Inoltre, sono ancora assetata e molto affamata e chiedo che siano rispettati i miei diritti di criminale comune, perché in caso contrario vi pianto qui in un bel casino. Tranquilla. Tranquilla un corno. Va bene, va bene. Ve lo faccio venire io il mal di cuore. Va bene. Eccolo lì, Doc. Il paziente è seduto con la schiena appoggiata al tronco dell'albero, un uomo grande e grosso con i lineamenti squadrati dell'allevatore anglosassone. J. Dudley Love, vescovo di Blenheim. I suoi occhi brillano, la sua pelle ha una tinta da bollito, sembra in preda di una crisi di entusiasmo, agitato, non del tutto presente. Salve Doc, dove diavolo ti hai ricacciato? Samuel si rivolge a suo fratello. Che ti avevo detto? Ti avevo detto che sarebbe venuto. Sarò il governatore del Beehive State, del grande stato alveare dello Utah, o no? Industria, dottore, questo è il motto del nostro stato. Industria è il simbolo del nostro stato. È l'alveare dorato, un maledetto alveare da 40 carati in oro massiccio. E per Dio, noi siamo delle piccole api operose, o no, Sam? Chi è quella ragazza? Sarò governatore o no? Sarai governatore. Sarò governatore di questo stato o no? Ci puoi scommettere, Dad? Ok, gli altri ragazzi dove sono? Li voglio tutti, soprattutto quel voltagabbana rinnegato di Smith, l'hai preso? Not yet, non ancora, Dudley, ma ci daranno una mano. Abbiamo contattato il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, l'ufficio dello sceriffo, il Federal Bureau of Investigation, FBI e tutti quelli che operano in questa giurisdizione, eccetto il Park Service. No, Sam, no. Non voglio nessun aiuto, posso prendere tutti quei ragazzi da solo. Quante volte te lo devo ripetere? Il futuro governatore dello Utah osservava sperduto mentre Bonnie, lo stetoscopio che le penzola dal collo, gli arrotola la manica e svolge con cura e precisione le pieghe del manicotto dello sfigmomanometro interno alla parte superiore del suo braccio. Dalle narici di Bishop cola sangue. Doc alza contro luce una brillante siringa ipodermica, una fiala è impalata sul lago. Sei carina, anche tu medico, come ti chiami? Mi fa un po' male il braccio sinistro, fino a giù alle dita, e tanto meno vogliamo ancora. Non vogliamo ancora tra i piedi ranger del parco, non sono nemmeno nati qui. La prima cosa che farò, anzi, è trasferire tutto questo dannato parco nazionale, come lo chiamano, alla proprietà statale. Prendi nota di quello che ho detto, Sam. E voi che state a guardare? Show, via! Trova Smith, digli che è meglio che si faccia vedere al prossimo incontro organizzato dalla congregazione della società per il mutuo miglioramento, oppure saremo costretti a rivedere la sua genealogia. La sola cosa peggiore di un gentile è un dannato mormone non praticante. Sei una gentile, ragazzi? Sono ebrea, mormora lei infilandosi le corna dello stetoscopio nelle orecchie e leggendo il misuratore di pressione. Sistole, diastole, mercurio e millimetro. 160 su 85. Lui annuisce, lei apre il manicotto. Non sembri ebrea, anche se sei gentile, assomigli a Liz Taylor. Non era giovane come te, intendo. Sei molto dolce, Bishop, ora pensa a rilassarti. Doc si avvicina col lago, appoggiando un'enorme mano ferma, calmante, sul sopracciglio umido del vescovo. Le farà un po' male, governatore. Ah, non sono ancora governatore. Ah, per il momento sono solo uno dei tanti vescovi, ma presto lo sarò e lei... E lei, dottore, ce l'ha l'aria sempre della nazione. Non ti avevo detto che sarebbe venuto... Non ce ne sono più tanti così, Sam. Mi piace questa ragazzina. Come chiami, tesorini? Abzug, che cazzo di nome sarebbe? Non mi sembra un nome americano. Chi ha rubato il mio triciclo, Sam? Comunica via radio. Allarme a tutte le pattuglie. Descrizione: carnagione scura, sudicio, foruncolo sul culo, cicatrice sul testicolo sinistro, calzoni sformati. Probabilmente armato e pericoloso, noto anche come Rudolf il Rosso, Rudolf the Red, Rudolf the Dakota, noto anche come Hermann Schmidt. Dove è finito quel Seldom Sin? Ricercato per furto con scasso, rapino a mano armata, rapimento, distruzione di proprietà privata, sabotaggio industriale, violenza aggravata, uso illegale di esplosivi, cospirazioni per interrompere il commercio interstatale, attraversamento aereo dei confini di Stato per sottrarsi al procedimento per scopi immorali, furto di cavalli e rotolamento di pietre. Ma c'è anche... Il fai free, Sam? Ci sei, Sam? Sam, in nome di Morun, Nefi, Mormon, Mosi e Om, dove ti sei cacciato? Cosa? Cosa dici, dottore? Conti all'indietro partendo da 20. Da dove? Da 20? 20? 20? Ah, 20, d'accordo. Conto alla rovescia da 20. Sì, signore, perché no? 20? 19? 18? 17? 16, 15. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione.org. Radioazione. Radioazione.org.